potenza suprema, un altro ed è mio padre, un altro è quel re, lei che adoro m'ha rapito, la sposa m'è promessa. E bello fu il dì senza divane, in cui ebri di speme c'era dato vagar nell'ombra soli insieme, nel dolce suono di Francia, nella foresta.